Ora Milton era in marcia verso la villa di Fulvia, sull'ultima collina prima di alba. Aveva già fatto il più della strada. Si era già lasciato di molto alle spalle il cucuzzolo dal quale aveva avuto la prima vista della casa. Gli era apparsa fantomatica, velata come era dalle cortine della pioggia. Pioveva come non mai, a piombo, selvaggiamente. La strada era una pozzanghera senza fine nella quale egli guadava come in un torrente per lungo. I campi e la vegetazione stavano sfatti e proni, come violentati dalla pioggia. La pioggia assordava. Dal cucuzzolo si era buttato giù nella valletta senza frenarsi, anzi sollecitando le scivolate. Poi prese a risalire il poggetto in cima al quale gli si sarebbe riofferta la visione della casa di lei, sgambando con tutta la forza. Procedeva con un passetto da bambino e intanto tossiva e gemeva. «Ma che ci vado a fare? Stanotte ero pazzo, certo deliravo per la febbre. Non c'è nulla da chiarire, da approfondire, da salvare. Non ci sono dubbi». Arrivò in cima e prima di allungare lo sguardo si scartò dalla fronte i capelli che la pioggia alternativamente incollava e scuoteva. Ecco la villa, alta sulla collina, a un 200 metri in linea d'aria. Certo, le fitte cortine di pioggia concorrevano a sfigurarla, ma egli la vide decisamente brutta, gravemente deteriorata e corrotta. Si avventò giù per il pendio, perdendo immediatamente la vista della villa, e arrivò in scivolata sulla riva del torrente, a valle del ponte. L'acqua sommergeva di un palmo i massi collocati per il guado. Passò da un pietrone all'altro con l'acqua gelida e grassa alle caviglie. Poi imboccò la stradina. Al piano camminò con furore, rispondendo al furore della pioggia. «In che stato sono? Sono fatto di fango, dentro e fuori. Mia madre non mi riconoscerebbe. Fulvia, non dovevi farmi questo, specie pensando a ciò che mi stava davanti. Ma tu non potevi sapere che cosa stava davanti a me, e anche a lui, e a tutti i ragazzi. Ah, tu non devi sapere niente, solo che io ti amo». Io invece debbo sapere, solo se io ho la tua anima. Ti sto pensando, anche in questo stato sto pensando a te. Lo sai che se cesso di pensarti tu muori? Ma io non cesserò mai di pensarti. Saliva al penultimo ciglione, a occhi serrati e piegato in due. Quando si fosse saputo al culmine, sarebbe scattato dritto e avrebbe sgranato gli occhi per riempirseli subito della casa di lei. Le gocce gli picchiavano in testa come pallini di piombo e aveva voglia a volte di urlare di intolleranza. Arrivò al culmine e subito lanciò gli occhi in alto alla villa, senza fermarsi, quasi inciampando nella prima discesa. Nel riequilibrarsi livellò gli occhi e si vide dinanzi i soldati. Si arrestò netto in mezzo alla stradina con le due mani premute sul ventre. Erano una cinquantina, sparsi per i campi, in tutte le direzioni, uno solo sulla strada, non tutti con l'arma pronta, tutti in mimetico ammollato. La pioggia si polvorizzava sui loro elmetti splendenti. Il meno lontano era quello sulla strada, a 30 metri da lui. Teneva il moschetto fra spalla e braccio come se lo ninnasse. Nessuno si era accorto ancora di lui. Parevano tutti, lui compreso, in trance. Con una zecca del pollice sbottonò la fondina, ma non estrasse la pistola. Nell'istante in cui il soldato più vicino dirigeva su di lui gli occhi frastornati dall'acqua, Milton ruotò seccamente all'indietro. Non gli arrivò l'urlo dell'allarme, solo un rantolo di stupore. Camminava verso il culmine con passi lunghi e indifferenti, mentre il cuore gli batteva in tanti posti e tutti assurdi, e sentiva la schiena allargarglisi fino a debordare dalla strada. Sono morto, mi prendesse alla nuca, ma quando arriva? Arrenditi! Gli si ghiacciò il ventre e gli mancò netto il ginocchio sinistro, ma si raccolse e scattò verso il ciglio. Già sparavano di moschetto e di mitra. A Milton pareva non di correre sulla terra, ma di pedalare sul vento delle pallottole. Nella testa, nella testa! Urlava dentro di sé e in tuffo sorvolò il ciglione e atterrò sul pendio, mentre un'infinità di pallottole spazzavano il culmine e tranciavano la sua aria. Fece una lunghissima scivolata, fendendo il fango con la testa protesa, gli occhi sbarrati e ciechi, sfiorando massi emergenti e cespi di spine. Ma non aveva sensazioni di ferite e di sangue spicciante. Oppure il fango richiudeva, plastificava tutto. Si rialzò e corse. Ma troppo lento e pesante, senza il coraggio di sbirciare all'indietro, per non vederli ormai sul ciglione allineati come al banco d'un tirassegno. Correva goffamente, tra un argine e il torrente, e a un certo punto pensò di fermarsi, visto che tanto non gli riusciva di prendere velocità, sempre aspettando la scarica. «Non nelle gambe, non nella spina!» Continuò a correre verso il tratto più alberato del torrente. Quando l'intravide, sull'arginello. Un'altra pattuglia, semi nascosti dietro le gaggie sgrondanti, a un 50 passi da lui. Non l'avevano ancora individuato. Lui era come uno spettro fangoso. Ma ecco che ora urlavano e spianavano le armi. «Arrenditi!» Aveva già frenato e rinculato. Puntò dritto al ponte minato e dopo tre passi si avvitò su se stesso e rotolò via. Sparavano da due lati, dal ciglione e dall'arginello, urlando a lui e a se stessi, eccitandosi, indirizzandosi, rimproverandosi, incoraggiandosi. Milton era di nuovo in piedi. Rotolando aveva urtato contro una gobba del terreno. Dietro, davanti e intorno a lui la terra si squarciava e ribolliva. Lanci di fango svincolati dalle pallottole gli si avvinghiavano alle caviglie. Di fronte a lui gli arbusti della riva saltavano con crepiti secchi. Ripuntò al ponticello minato. Era una morte identica a quell'altra. Ma agli ultimi passi il suo corpo pianse e si rifiutò di saltare in aria a brandelli. Senza l'intervento del cervello, frenò seccamente, saltò nel torrente volando oltre i cespugli tranciati dalla fucileria. Cadde in piedi e l'acqua gli grippò le ginocchia, mentre ramaglia potata dal fuoco gli crollava sulle spalle. Non indugiò più di un secondo, ma seppe che era bastato. Se solo osava girare gli occhi, avrebbe certo visto i primi soldati già sulla sponda che gli miravano il cranio con 7, 8, 10 armi. La mano gli volò alla fondina. Sotto le dita non schizzò via che un po' di fango. Perduta. Certo gli era sfuggita in quell'enorme scivolata a capofitto giù dal ciglione. Per la disperazione voltò intera la testa e guardò tra i cespugli. Un solo soldato gli era vicino, a un 20 passi, col moschetto che gli ballava tra mano e gli occhi fissi all'arcata del ponte. Con uno sciacquio assordante si tuffò avanti di ventre e con un solo guizzo si aggrappò all'altra vira. Riscoppiò dietro l'urlio e la sparatoria, scavalcò la riva sul ventre e si buttò per lo sconfinato nudo prato. Ma le ginocchia gli cedettero nell'intollerabile sforzo di acquistar subito velocità. Stramazzò. Urlarono a squarciagola, una voce terribile malediceva i soldati. Due pallottole si conficcarono in terra vicino a lui, morbide, amichevoli, Si rialzò e corse, senza forzare, rassegnatamente, senza nemmeno si zigzagare. Le pallottole arrivavano a branchi, a sfilze. Arrivavano anche in diagonale. Alcuni si erano precipitati a sinistra per coglierlo d'infilata. E gli sparavano anche d'anticipo, come ad un uccello. Nella testa, non aveva più la pistola per spararsi, non vedeva un tronco contro cui fracassarsi la testa. Correndo alla cieca, si alzò le due mani al collo per strozzarsi. Correva, sempre più veloce, più sciolto, col cuore che bussava, ma dall'esterno verso l'interno, come se smaniasse di riconquistare la sua sede. Correva come non aveva mai corso, come nessuno aveva mai corso. E le creste delle colline di rimpetto, annerite e sbavate dal diluvio, balenavano come vivo acciaio ai suoi occhi sgranati e semiciechi. Correva e gli spari e gli urli scemavano, annegavano in un immenso, invalicabile stagno tra lui e i nemici. Correva ancora, ma senza contatto con la terra. Corpo, movimenti, respiro, fatica vanificati. Poi, mentre ancora correva, in posti nuovi o irriconoscibili dalla sua vista svanita, la mente riprese a funzionargli. Ma i pensieri venivano dal di fuori. Lo colpivano in fronte come ciottoli scagliati da una fionda. Sono vivo, Fulvia, sono solo. Fulvia, a momenti mi ammazzi. Non finiva di correre, la terra saliva sensibilmente, ma lui sembrava di correre in piano, un piano asciutto, elastico, invitante. Poi d'improvviso gli si parò dinanzi una borgata. Mugolando, Milton la scartò. La girò sempre correndo a più non posso, ma come l'ebbe sorpassata, tagliò a sinistra e la girò di ritorno. Aveva bisogno di vedere gente ed essere visto, per convincersi che era vivo, non uno spirito che aliava nell'aria in attesa di incappare nelle reti degli angeli. Riguadagnò l'imbocco del borgo e l'attraversò nel bel mezzo. C'erano ragazzini che uscivano dalla scuola e al rimbombo di quel galoppo sul selciato si fermarono sugli scalini, fissi alla svolta. Irruppe Milton come un cavallo, gli occhi tutti bianchi, la bocca spalancata e schiumosa, ad ogni batter di piede saettava fango dai fianchi. Scoppiò un grido adulto, forse della maestra alla finestra. Ma lui era già lontano, presso l'ultima casa, al margine della campagna che ondava. Correva, con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo. Era perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della pace, ma ancora correva, facilmente, irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e fare muro, e a un metro da quel muro crollò.